Ci rimane una grande frammentazione, perché il voto spagnolo ha confermato quelle che sono delle tendenze che noi abbiamo visto anche in altri paesi europei, tra cui l'Italia, in cui viene a mancare quello che storicamente abbiamo definito tradizionale bipolarismo tra due forze, cioè tra i socialisti da una parte e i popolari dall'altra parte. Quindi queste elezioni ci danno non più due partiti principali, ma addirittura cinque partiti, tutti loro con ambizioni di formare un'alleanza per il governo. Ecco, questa è, diciamo, la prima grande novità di questo. Tutti con l'ambizione di formare il governo, ma per come sono andate le elezioni, l'unico partito, diciamo, che ha le forze per farlo è appunto il Partito Socialista. Esatto, il Partito Socialista è il vincitore di queste elezioni, confermando anche un po' le attese che venivano dai sondaggi, perché ha vinto nettamente il primo partito con il 28% dei voti ed è il partito indispensabile per formare una maggioranza. Perché indispensabile? Perché non ha abbastanza seggi per formare un governo da solo, ma tutti gli altri partiti messi insieme non possono coalizzarsi perché sono politicamente troppo lontani per escluderlo dal governo. Quindi spetta ai socialisti, spetta al Partito Socialista individuare l'alleato o gli alleati per arrivare alla maggioranza di governo. E qui sta già il primo sviluppo potenzialmente interessante, perché in realtà i socialisti hanno due alternative, due opzioni molto diverse tra loro e che avrebbero conseguenze molto diverse per la Spagna ma anche per l'Europa. Due possibilità, una, diciamo, è quella del partito di centro, arrivato terzo a pochissima distanza dei popolari, l'altra invece sarebbe quella di unirsi sia con Podemos sia con i partiti indipendentisti, che però sono gli stessi che hanno causato la caduta del governo precedente. Esattamente, l'opzione più naturale appunto per Sanchez, per i socialisti, sarebbe quella di allearsi, di continuare l'alleanza con Podemos e altri partiti di sinistra che hanno sostenuto il suo governo di minoranza nell'ultimo anno. Questa potrebbe essere un'opzione un po' difficile, non solo perché è difficile arrivare effettivamente alla maggioranza dei seggi anche con questa opzione, ma perché i partiti autonomisti sono proprio quelli che hanno fatto cadere il suo governo quando gli hanno bocciato la legge di bilancio. Ovviamente il governo Sanchez non è caduto perché c'erano dei dissidi sulla legge di bilancio, che anzi era molto progressista, era ben vista anche da questi partiti, ma perché ci sono dei dissensi sulla questione dell'autonomia catalana. Quindi l'alternativa per i socialisti, cioè quella di fare un'alleanza con i centristi di Ciudadanos, è completamente alternativa, perché questo partito centrista è fortemente contrario agli autonomisti catalani, è fortemente contrario alla richiesta di indipendenza, e quindi un'alleanza di questo tipo sarebbe di colore radicalmente diverso, diciamo. Ecco, spostandoci invece su quelli che sono gli sconfitti, i grandi sconfitti di questa tornata elettorale, si tratta del Partito Popolare, una sconfitta, un calo che fa quasi pensare a quello del PD nel nostro paese. Sì, noi l'abbiamo paragonato a quello del PD. In realtà le condizioni sono un po' diverse, anche perché qui si sta parlando di un partito di centrodestra che aveva dei potenziali alleati, cioè i popolari contavano sul fatto che dopo le elezioni, anche perdendo seggi rispetto alle elezioni precedenti, avrebbero avuto comunque un numero di partiti potenzialmente alleati, cioè i centristi ancora una volta di Ciudadanos e il partito di destra Vox, che è entrato in Parlamento per la prima volta con il 10% dei voti. La speranza dei popolari era di riuscire a formare una maggioranza con questi partiti, ma hanno perso così tanti voti rispetto a 3 anni fa che neanche questa possibilità sarà percorribile, quindi saranno praticamente condannati a stare all'opposizione. Ecco, Vox, un altro partito che nominavi, che entra per la prima volta in Parlamento, partito di estrema destra, con cui quindi si era valutata comunque un'alleanza, diciamo. Sì, perché l'esplosione di Vox è avvenuta lo scorso dicembre in occasione delle elezioni regionali d'Andalusia. L'Andalusia è la regione meridionale della Spagna, quella più esposta, diciamo, al problema della crisi migratoria, e è sempre stata una roccaforte della sinistra. Qualche mese fa, appunto a dicembre, le elezioni regionali sono state vinte dai partiti di centrodestra, che hanno ottenuto la maggioranza e hanno formato una coalizione che comprende anche Vox, cioè questo movimento che in realtà esiste da diversi anni, ma ha sempre preso percentuali molto molto basse, lo 0, diciamo, era un partitino dello 0, essendosi, diciamo, imposto nelle elezioni regionali in Andalusia, è diventato un'alternativa politica, diciamo, attraente anche per molti elettori in tutto il resto della Spagna che avevano una visione più di destra rispetto a quella incarnata dal tradizionale Partito Popolare. Tornando al voto, diciamo, in generale, poi con una domanda relativa in qualche modo anche a Vox, nel senso, è aumentata tantissimo l'affluenza in queste ultime elezioni, quindi la prima domanda è: perché è aumentata così tanto secondo te? E la seconda invece, a chi ha giovato di più, diciamo, questo aumento, un aumento appunto del 10%? Dunque, se noi guardiamo la mappa dell'aumento dell'affluenza rispetto a 3 anni fa, vediamo innanzitutto che l'affluenza è aumentata ovunque, e questo ci dice che in generale queste elezioni erano più, diciamo, sentite dall'opinione pubblica, dagli elettori, rispetto a quelle di qualche anno fa. Però vediamo che è aumentata molto di più in certe zone che in altre. Ad esempio la Catalogna è una di quelle regioni dove l'aumento è stato molto più forte che in altre regioni, addirittura molto più di 10 punti percentuali. Questo che cosa ci dice? Che ci sono alcune zone dove effettivamente questo appuntamento elettorale era sentito in modo particolare perché gli elettori volevano andare a esprimersi in maniera molto forte, o per protesta o per sostenere un'alternativa diversa rispetto al passato, che è stato ovviamente asimmetrico. Se noi guardiamo le aree di forza dei vari partiti, possiamo notare che in effetti anche dove, ad esempio in Andalusia, Vox, l'estrema destra, era andata molto forte, non c'è stato un aumento di affluenza particolare rispetto al resto della Spagna. E quindi questo ci suggerisce che l'aumento della partecipazione non sia tanto legato a questa nuova offerta politica, quindi non ci sono elettori che in passato si erano astenuti e che adesso sono andati alle urne per votare il nuovo partito che è emerso sulla scena, come dicevamo prima, ma sono andati in generale perché questo appuntamento elettorale, dopo anni di turbolenze, diciamo, istituzionali, governi che cadono, governi che si insediano, ribaltoni, come diremmo in Italia, e anche questi governi che cadono dopo pochi mesi, ecco, gli elettori avevano gran voglia di riavere voce e di esprimere nuovamente le loro preferenze politiche. Perfetto, un'ultima domanda, diciamo una richiesta di una previsione, nel senso che l'unico altro caso in cui era mancata una maggioranza, insomma nessun partito è andato oltre il 30%, si era tornati alle elezioni dopo 6 mesi. In questo caso, secondo te, si riuscirà a formare una maggioranza? Dunque, fare previsione è sempre difficile, però in questo caso io credo che ci siano molte più possibilità rispetto al 2015, perché nel 2015 l'allora partito di maggioranza relativa, cioè il Partito Popolare, era molto più isolato, non aveva alleati potenziali con cui formare un governo, tant'è vero che poi si andò a rivotare dopo 6 mesi, i risultati furono praticamente identici, anche se i popolari stavolta superarono di poco il 30%, e furono, tra virgolette, costretti a formare un governo di minoranza, cosa che in Spagna è possibile, perché non c'erano altre alternative. Questa volta il Partito Socialista ha molti più alleati, come dicevamo prima, non solo l'opzione progressista, quindi di fare un'alleanza con Podemos e con gli autonomisti progressisti di sinistra, ma anche con i centristi di Ciudadanos. In entrambi i casi potrebbe raggiungere, se non superare, la maggioranza assoluta dei seggi. Questa è una differenza fondamentale rispetto alle elezioni precedenti, che personalmente mi fa pensare che un accordo di governo sia possibile.